Why young, nice. I sight them, yeah. Chop. Sight them from the corner, yes, they meet chop a street. Ready fi give them eight for the boss, them whistle your feet. Your chuck yes, they match a ton of speak. It no safe, them get a gun and do the killing with this another dead. See the wanna be the quick fi do the hit. Just a Guinness and a spliff and them no afraid fi go pop it in your face. The guilty chick a finger won't miss. Them recognition seeker won't quit. Say them a some wanna be. Them a some wanna be gangsters. Lord, wanna be fake. Wanna be chief. Get tough and we not in a the place where get deep. Them a wanna be. Them a some wanna be gangsters. Alright, who can you be a gangster and you still? E siamo partiti. Pregnant baby madam. Porto Royal. Every day in a quarrel and you quick fi set it on. You definitely dissing uptown folks if you go and go see them. And if you're not safe, you must done. In your face, you get a knuckle of chase long tongue. And if you love push, your gun surround yourself there with a wall. You gonna get slayed with your gun. You wanna be. Hey, them a wanna be gangsters. Lord, wanna be fake, wanna be chief. Get tough and we not in a the place we get deep. Them a wanna be. Them a some wanna be gangsters. Lord, dip on the corner, him and imagine last week. Sight a radio car with couple plain close police. Was a curfew and everybody don't see it. When them fling him in a car chunk like him a goatee. Another night in a jailhouse asleep and he never got a lawyer. No consultant fees. Spread your bed in a the cold concrete. While Babylon boss say him take another dog from the street. Them a wanna be. Them a some wanna be gangsters. Lord, wanna be fake. Wanna be chief. Get a farina in a the place where get deep. Them a wanna be. Them a some wanna be gangsters. Wanna be gangsters. Them a some wanna be gangsters. Them a name recognition seeker. Them a some reckless youth. You know see it. When corner man a blast, at that time them ready for shoot. It's just the truth, you know. Them a some wanna be. Them a some wanna be gangsters. Lord, wanna be fake. Wanna be chief. Confidence, yeah, the rooty girl, you don't know me. Comfy mash it up in at the Trinity. You find me skanking by the sound system willingly. Skipping two step, me show a viability. I can't seem to get enough of this sick community. The way I love it all, I travel far and wider for the sound and the vibes. Said I travel far and wider in search for the music that. Session be bubbling. Bounce a trifle, grab me up, me want no troubling. And find the spice rum buckle that I be pocketing. A little junk it all. I tell him I don't mean no wrong. Here for the rubber dub, I love to sing along. But I bet I yeah, he can mouse. I am a student at this music, I need a chance. So can you let me off? I traveled far and wider for the sound and the vibes. Said I traveled far. That I might follow. I travel far and wider Looking at me face when you a talk to me. Hands pan me waist, might have it dropping me. Become a nasty time, wait, Pandela. Place a move strange, watch how you walk to me. Looking at me face when you a talk to me. Hands pan me waist, might have it dropping me. Become a nasty time, wait, Pandela. The place moving at right, I know where it at right, I know where the Glock fire shot down the clock. You can't turn back. Hands of time be reversal of pint with them plot. Make your drop off the map. So youths be wiser, they blaming the music. They say that it's rooted in dancehall or trap. Well, if that's the case, then what's the excuse you will use when good youths get shoot by the cops? Yo, me have be wonder, what could have caused this? The land where we love just a move so lawless. Yo, I could not hungry, oh man a star, but find strength be rap, oh man a supermarket. When who the country and it right for harvest. Yo, I wonder what the sense is in all this, ay. And then the man where you pray pan, oh man, them forget line up, make we shoot the target. Play some move strange, watch how you walk to me. Looking at me face when you a talk to me. And span me waist, might have it dropping me. Become a nasty time, wait, Pandela. Play some move strange, watch how you walk to me. Looking at me face when you a talk to me. And span me waist, might have it dropping me. Become a nasty time, wait, Pandela. Hey, I me say put up who no one agree 100%. No, this time make no sense. Self-defense, self-defense. Oh, some might take offense. To all time get so tense. Them claim innocent, it depends, it depends. Woman put up who no one if who no not take no check. If who no not take no check, make we raise it, protect and select it. Make a boy know if him touch him, regret it. No afraid fi go with it, them not go repress. How much have fi bleed, how much human have fi dead? Before you see, say something sick in a them on the head. Psychologically, she say them inadequate. In actuality, society, it a reflect. You think you own your woman, things say are your property. You and your dirty brethren, them keep up atrocity. When we retaliate, we not gonna need apology. We sisters under attack, this a calamity. Me hear someone that say them rather rape than turn again. As if them they think they related in any way. You know she say as some sick of them mentality. The patriarchy propagate all of them policy. Even in the church, the violation prevalent. Jehovah, you know witness, tell me that no relevant. Them the business can't exist in our regiment. I self-defense and we no hesitate. Hey, some move strange, watch how you walk to me. Looking at me face when you a talk to me. And span me waist, might have it dropping me. Darius Riley, Fast Production. Keep it and give them a red shell. Hey, diamonds and gold that no talk. Every day the same thing, a gunshot a bar. No respect and no love for man, finding out them heart. Who's gonna save their soul? Don't sell your soul. Don't sell for gold. It's mind control, but their hearts so cold. Hey, diamonds and gold, that's all that they know. Just like ice, their hearts are so cold. And not yet. War and hate is all that they know. Who's gonna save? Passer les jours, j'arriverai. real revolutionary. Sure. Love are the greatest power. See? Yeah. Wow. It's only love you deal with. Real revolutionary. Sure. Yeah. Take it on. Hey. Real revolutionary. Fights for what is right, but brings in love and light. Yeah. Real revolutionary. Peaceful and non-violent. But strong and potent. Real revolutionary. Fights for what is right, but brings in love and light. Yeah. Real revolutionary is a soul rebel, unconquerable. The system is unjust and wicked, so I got to be bad. Me can't tolerate this oppression and exploitation of the world. So act like lava we are come. No apologies when I and I chant down Babylon. Love is our weapon in this revolution, so we shall overcome. We are Babylon. Killing la la la la la, singing la la la like a bird. Spread the man a la silly little and be silly little all over the world. To every silly little little little living the world. Yo, like a ratatarati, be the gun. Like master the yomi, a different me zone. What are the winner me for me mission? And follow along me vision, no division. No visa, you're not ammunition. So fully bust a rebellion. With the microphone in my hand again and again. Hey! Real revolutionary. Fight for what is right, but brings in love and light. Yeah. Real revolutionary. Peaceful and non-violent, but strong and potent. A real revolutionary. Fight for what is right, but brings in love and light. Yeah. A real revolutionary is a soul rebel. Alright. Hey. I raise my fist up to the sky. I'm always asking why. I'm searching for the truth and not the lies. My mind is floating up high. I reach for love and light. I open up my heart and my eyes. So if you're wondering how that you can take up a vow and be a revolutionary right now, you need your brain to ignite. You need to get up and fight. You need to understand what's wrong and what's right. I search for freedom every day. It's in the music that we play. So listen close to what we say. There's got to be another way. We know the world is not okay. We're here to teach the youth to pray. We need to break from the soul. We need to answer our call. We need to empathize in all kinds. It's time we get up and sing. Make sure the love that we bring is coming strong and it is all right. Are you revolutionary? Fight for what is right, but brings in love and light. Yeah. Are you revolutionary? Peaceful and non-violent, but strong and potent. Are you revolutionary? Fights for what is right, but brings in love and light. Yeah. Real revolutionary is a soul. A different thing. Listen. Strong and unconquerable. One. Man, a vegan for your lot of reason. For justice and peace and for more compassion. Two. Better environmentally too. Ecologically, one of the best things you know can do. Three. Physically, spiritually, healthy. Beneficial politically and economically. Practice empathy, the golden rule at the key. The cash will make we. Yo! Hey! Come follow me from the righteous path. Much easier me, I didn't feel it with the clean heart. Better feed the body, feed the spirit and the mind. Looking at the mirror, tell me why you're fine. Family, society, and school just like to be about morals and different biology. So listen to your heart, got to face reality. Are you ready? Not being a piglet. Not cook a cow or roast a rabbit. Not kill and exploit them for egg, milk and meat. Nobody you fear of or eat. Well, actions speak louder than a word. So if you wanna reap progress in this world, then you get to be the change you wanna see. In your liberty, take responsibility. Sit for the victory of good over evil. If the earnest education for the people. G for going green globally. Animals and fin homie I IT, INETY, SI. T for tuners in the turbulent times. A for abolition for all worldwide. L for love and life. Take it down. Hey. I human beings could have profit as well from a man-wise plan. Big planet. Starvation, rubbish, and then water. Big natural disaster. We could have dodged it. lanciamo l'appuntamento con le anteprime, con i pezzi che ci passa ogni volta Federico Virtus Red Golden Green, in attesa della diretta qua con Tsunami Massive, perché stanno tutte e due qua. Tra l'altro Drip c'ha un cardigan che è meraviglioso. Io vorrei, anzi adesso facciamo pure foto, video, reportage, perché davvero il cardigan di Drip merita di essere visto. Detto questo, partiamo appunto Red Golden Green, la nuova tune dei New Tecnici, Lost in Yokohama. Ci ricordiamo tutti per Affitta una Ferrari, come mi ha ricordato il buon Phenom, che addirittura ce l'ha su vinile. Io no, prossima serata che faremo insieme ai vinili, che glielo rubo. Detto questo, Red Golden Green, prima tune, Lost in Yokohama, New Tecnici, che poi troveremo al Peace and Love Festival 11, 12, 13 luglio, la Disana. Sono il più grosso marchettaro della storia. Tsunami, sabato 27. Regional Bibosh. Da karaoke se bocci come Tetsuya, hey! E luci come New York, ma qui è tutto made in Japan, hey! La gente cravatta che inciampa, ubriaca bevendo sake. Non dire cin cin, non dire cin cin, potresti creare casino. Hey, hey, somebody plastica finta tipo Moplane. Ma cos'è questo Oktoberfest? Made in Japan, made in Japan. Ancora una mascherina vestita un po' da bambina. Non riesco a dare l'età, ma di sicuro non è la mia. Papà lo so, il trend non crasta. Usciva dal telefonino, mangio nigiri, mangio un panino, mentre ti aspetto giù nella hall. Un aereo sono visto di ali, viaggia sopra di te. Ti ricordo che devi tornare, tornare più presto da me. Somebody, somebody. Se donne quasi gnocchi, tacco basso, gambe storte, hey! Guarda un altro kanji che assomiglia a Nike Kenji. Arigato, arigato, cos'hai massacrato? Mentre la pioggia si asciuga un po' prima, prima di arrivare da me, sta spuntando piano un timido sole, made in Japan. Yeah. flower which waters itself. The rose be like a queen who polishes her crown. Your rose be like a street light, but you put me on the sun. Your rose be like beauty's a tiny rose, but in a glass spell jar. A glass spell jar. A glass spell jar. Jar. Maybe if you think you can go alone, your chest to fill and be stone. I need a rain of sun in the past, but it's going really fast. To maybe it's time to take it, you know. But I'm joining you, let it grow. I got into put out what you can control. Doesn't worry, so let it go. Abbiamo già nominato la Santa Vergine, no, e già proprio per questo, beh, insomma, secondo me, no, beh, nell'errore, secondo me, una simpatica invocazione alla Santa Vergine un po' ci stava, eh? Cioè, poi magari non l'ho sentita bene bene, però insomma, da parte mia bioparco, da parte mia non di sicuro. Ma l'ho sentito, porta una donna, mi sembrava allora, proprio... Marco. Porta la Madonna. Se io no, parto la Madonna. Cioè, io avevo capito così, però avevo capito porta una donna, ma va bene. Detto questo... Bioparco! Intanto che, appunto, qui cresce la pancia di tutti... Tra l'altro, state un pochino distanti per la sicurezza... Che lo sapete, insomma, il Brancaleone il mercoledì ci ospita, ma ovviamente è chiuso a meno che voi non bussiate con i piedi, perché qua lo aspettiamo sempre. Detto questo, andiamo a sentire l'ultima tune per la collaborazione con Red Golden Green, Ave Maria. Di chi è? Aspetta, c'era la scelta, era un Fabio che è quello dei Sound System, poi. Africa Unite, no, ma c'era no quell'altri, quello di Radicine, no, ma Tsunami Massive, che poi sabato festeggia pure il compleanno, tra un po' li sentimo, che tra un pochetto gli rompiamo i coglioni, li famo parlare, dai, e intanto ci sentiamo il pezzo nuovo Ave Maria, Tsunami Massive, Teron Fabio, Ave Maria 2.0, scusate. Shabu boy! Tula di ganja man and di ganja ladies original Tsunami Massive with Deya. Insieme al Baron Fabio Moacquai. Ancora cronici. Sempre The Cui. Ave Maria. E così sia. Fratelli e sorelle, tutti in piedi e piedi. Shabu boy! C'è chi c'ha il suo Dio, io credo nella mia. Ave Maria, Ave Maria. Te prega del tuo Dio, io prego la mia. Ave Maria, e ganja sia. C'è il tuo Dio, io credo nella mia. Ave Maria, Ave Maria. Te prega del tuo Dio, io prego la mia. Ave Maria, e ganja sia. Arriva la sera, momento di preghiera. Sacro come un prete mentre fa una messa nera. Niente mentre mi sto in scena. Qui la storia è seria, mi metto dentro al letto e ne dico un'antera. Ora va per chi non la fuma tutti i giorni, con le brutte cere fammi parte e non ritorni. Un'altra va per quelli che la chiamano droga, si tratta di erba naturale, mica di coca. La pensa sotto le pezze, io che ripenso a tutte le mezze mici appoggiate qui vicino a me. Non ci l'ho, ne ho fatto troppo, erano otto come staccato, me ne sono rimaste solo altre tre. Una più erba nella conserva e la mia benza sono in riserva. Adesso come faccio? È l'ora del mio tè. Mi tocca scendere ma non mi prende, da queste bande troppo si spende autoproduzione e penso solo a me. Allora ti piace come a noi de fa la grossa, lascia in segnale come fosse una sommossa. Non esiste al mondo che è sostanza illegale, dentro non ci vado per una cosa naturale. Ti piace come a noi de fa la grossa, lascia in segnale come fosse una sommossa. La voglio autoprodotta, la voglio naturale, una mano in aria se la vuoi legale. Chi c'ha il suo dio, io che non è la mia. Ave Maria, Ave Maria, te prega del tuo dio, io prego la mia. Ave Maria, e ganja sia. Chi c'ha il suo dio, io credo nella mia. Ave Maria, Ave Maria, te prega del tuo dio, io prego la mia. Ave Maria, e ganja sia. Mi rollo uno split insieme a Big Chip, te lo sale in tua Roma, porto ganja in tir, perché è dell'elisir della lunga giovinezza. Ulimo e il babone, non lo schifo, non c'ha la piazza. Ehi, la giù portata, non poco della mia. Sfido Garamba, finanza e polizia. Di qui tu passa, compare sulla via. Facciamo gli scongiuri, cantiamo Ave Maria. Hermano Slim, Hermano Slim, smoghi pannicelli, spandi il riso, spandi cocci. E se non ci conosci, non ci chiedere perché. La mattina a colazione, come un caffè ne fa succe. Insieme agli amici, tutti quanti felici. Sa già qui sta, sa già sta, ora mo sentiamo ce mi dici. Insieme agli amici, tutti quanti felici. Cantiamo Ave Maria, grazie per i benefici. C'è chi c'ha il suo dio, io che non è la mia. Ave Maria, Ave Maria, te prega del tuo dio, io prego la mia. Ave Maria, e ganja sia. C'è chi c'ha il suo dio, io credo nella mia. Ave Maria, Ave Maria, te prega del tuo dio, io prego la mia. Ave Maria, e ganja sia. Ganja we smoke, ganja we smoke. Ave Maria, Ave Maria, ganja we smoke, ganja we smoke. Ave Maria, e ganja sia. Ganja we smoke, ganja we smoke. Ave Maria, Ave Maria. 10 anni dopo, ancora cronici. E allora, in attesa che i giovani, una volta della Tsunami Massive, 12 anni di compleanno, sabato 27 alla strada, questo sabato, aspetterei che facciano il giro, ma intanto ci prepariamo ben bene, ma almeno un saluto, fatecelo. Buonasera, fatecelo. Buonasera. Bella raga, buonasera. Ma si sente? Il microfono è qua, eh. Ma si sente? Se io faccio così, vedo che bella, sono... raga, buonasera. Bella, bella, buonasera. Ecco, così si è sentito molto meglio. Vedi, bella. Guarda, la simpatica regia. La professionalità. Chi è? I potenti mezzi. Ha spaccato il PC. Comunque, ce ne frega niente. Ci andiamo a sentire, appunto, andiamo a fare un po' d'anteprima o ci vogliamo fare due chiacchiere? Facciamo due chiacchiere. E allora ragazzi, come avete passato questi 12 anni? A parte il cardigan di Trip che appunto, Tesimo, sempre vestito male comunque. 12 anni, no per carità, non sono un consulente di moda. C'ho di fronte Dolce Gabinetto. Non sono un consulente di moda. Però insomma, se vestiamo ancora uguali, esatto, dopo ma perché come... noi non ci siamo invecchiati male come Trip. Io sono andato avanti nel frattempo, prima ero io il padre, adesso lui è il mio padre praticamente. E come abbiamo passato questi 12 anni? Beh, ancora siamo vivi, se siamo menati, già questa è tanta roba. Nonostante la tsunami, nonostante il pub, siamo riusciti a mantenere un bel rapporto e siamo arrivati a questi 12 anni, perché 10 non li potevamo festeggiare quel dolce evento del Trip Papà, e quindi siamo qua con un paio di novità e stiamo lavorando pure sul nuovo album con molta calma, perché i tempi sono quelli che sono e i capelli sono sempre più grigi. Piano piano gliela famo, ha fatto tutto. Esatto, sa, no? Infatti non ci abbiamo pressioni di nessuno, quindi chi ce va dire? E poi voglio dire, cioè, stiamo qua, ma soprattutto saresti mai creso un anno fa, se qualcuno ti avesse detto, oh, tra un anno saresti stato qua, te lo saresti preso. Mi fa una certa impressione, fondamentalmente. No, ma grazie, grazie. Sì, ho capito, pure Virtus vuole essere candidato al premio Nobel. Tra l'altro, Federico, Virtus sarà tra i nostri ospiti delle prossime settimane con Red Gold Green. No, no, beh, però ci ha provato, dice no, perché grazie a me adesso vi riparlate. Mo, non voglio mettere, però capisci, c'è tutta gente che si arroga il diritto di avere un premio Nobel per la pace quando... Vabbè, però mi ha detto una cosa, spezziamo un'arancia in faccia a Smash. Tante persone ci tenevano che ci riappacificassimo, senza entrare poi... poi dopo due Montenegro e tanta roba, bravo. E quindi diciamo che questa nostra reunion ha fatto piacere a tanti. Vabbè, e meno male, così. A me non me ne frega un cazzo, non c'è nel senso. Ma vedi po', però detto questo, appunto, cioè non lo so, mi fa un saluto, vuoi dire qualcosa? Ma guarda, saluto tutti gli amici a casa, meno male chi ce l'ha ancora. Eravamo qui per un'altra motivazione, però vabbè. Ma no, ma adesso mettiamo a questo punto la ciunna, perché sennò davvero pare casa Pianello, certo. E non mi sembra il caso. Che è lo stacchetto musicale questo, perché non lo vendete? Per questo il mercato è adesso. Quanto me dai? Fino a fine mese il mercato aperto. Io affitto Smash fino a fine stagione, però con diritto di riscatto per me. Detto questo, pretty come? Pretty. Ma dovresti pure spiegare il perché metti pretty, cioè hai fatto anni di web radio, ma e ancora non hai imparato. Ma come ho funziona. Detto sabato il compleanno del Tsunami Massimo, 12 chi? Anni passati, chi è recentemente? Con i Pacchia, che già abbiamo detto prima, e Paul Generalini. Per quello che mettiamo pretty. Tsunami Massive Fit General Levy Ready Fitune De qua Tsunami. Yo me General. Let the girl them look good every time. Winter time, autumn and summer time. Trip and General Levy said that. So I'm picking up on the front line. General Levy says so. No. The girl Pretty. Pretty. Me need your intellectual right. Every time you talk straight, cause you're fresh and unique, you may want me to greet you. Make me heart skip a beat, cause you look so sweet. Make the gauge pan the temperature a peak. Me woulda love to see your sexy body dip on the beach. You're pretty from your head straight down to your feet. Me love your pretty looks, me love the way how you are do it. Me read the profile and me love your dances. Beauty queen, them are wonderful. Beauty trip, is a belly man. The more you're fatty, the more you're beautiful. You know my belly, cause you know I'm a ganja fan. Smoke. I like a spliff with your woman. Smoke. I like a spliff with your girl. Smoke. I like a spliff with your woman. Smoke. I like a spliff with your girl. Me need a girl who smokes marijuana with me, Lord. Me need a girl who peer up with me, Lord. You're pretty. Sexy in the coffin, yet you're pretty like a lily. Pretty. Me need you in a natural royal for serenity. Look how she pretty, and she hot, from the front, and the back, she got the skill, she got the knack, from the A to G, won't stop, this one your name when me I say, get the girl with no delay, let me then no say, we no rapper, we no play no ricochet, girl you got the hip, I got the ubery, would I love to see you in a negligee, palette proof I say, every time I see you start again, my process was say, off a touch up on the runway like, cause she got the, that's all I really drop, I say, you walk with confidence, step with excellence, live your life well balanced and free from pestilence. Walk with confidence, step with excellence. Live your life well balanced and free from pestilence. She pretty. Sex in the profilia, yeah, she pretty like a lily. Pretty. Me need you in my chariot, yes, for serving in the city. Pretty. Sex in the profilia, yeah, she pretty like a lily. Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty. Me need you in the chariot for serving in the city. Look good in your clothes, pretty like a rose. You set them all, you a hot girl around. She a fresh like the water, she not for Fukuoka. Who won the chalice? She a the promoter. Girl, what I love to see your sexy body on the bed. You're pretty from your head straight down to your face. From the east, from the west, from the north, from the south. We love that girl, we are gonna say him. You're pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty. Sexy nickel finny, get you pretty like a lily. Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty. Me need you in a chariot for serving in the city. Look how she pretty, and she hot. Cioè, il mio cardigan. Manco troppo, in realtà. Shake up the skill. Mi sono confuso. Quale emozione, ragazzi, ha preso il sopravvento? Ma quale emozione la vecchiaia? Non ci vedi, quindi pensai che fosse finita. Sta ancora potrebbe a metà. Essere... No, boh, a metà non esageriamo, però c'erano ancora qui 20-30. La classica sfumatura da radio. Esatto, proprio classica, quella fatta bene, esatto, proprio professionale. Oh, pare Radio 101. Sembriamo Linus e Savino. Assolutamente. Però giustamente mi facevano notare i nostri ospiti, che a volte anche gli ospiti hanno ragione, perché gli ospiti non sono come i clienti, non sempre hanno ragione, ma questa sera effettivamente sì. Non abbiamo detto manco una parola su questa collaborazione tra Tsunami Massive e Teron Fabio per Ave Maria 2.0. Che ci dite? Com'è stato collaborare con Fabio, riprendere appunto la Chun, il nuovo riddim? Vabbè, ovviamente, insomma, inizio io. Ovviamente è scusate, un onore. Cioè, scusate, inizia lui che è l'uomo col cardigan. Esatto, preso da Primark. Big Tripper. Primark è 8 euro. Tanta roba. Dopo metteremo le foto. In allegato il prodotto, così insomma. Primark, caccia la sponsorizzazione. Esatto, è quello che noi facciamo tante opere buone. Vi ricordo sempre il laboratorio superabile. Ovviamente... Jolly Roger, sempre quello. Jolly Roger, si chiama sempre Jolly Roger. Sempre io Jolly Roger, eh? Sì, ok, nel dubbio. No, vabbè, ho chiesto, hai visto mai. Prego, quindi Primark e Jolly Roger 8 euro, ma lasciamo la parola a Big Trip. Parlavamo del discorso Ave Maria, insomma, vabbè. Ovviamente è un onore, insomma, è stato un bel onore per noi fare un pezzo con Teron Fabio, rappresentante dei Sud Sound System, vabbè, le origini del reggae italiano, insomma, che se li siamo sempre sentiti fin da quando siamo ragazzini, quindi farci un pezzo insieme, insomma, è stato un bel onore, soprattutto rifare il 2.0 di un pezzo uscito 10 anni fa, o Moso 11, che era 2013, e rifarla, insomma... Rifarla con ritmi insomma un pochino più dancehall, e abbiamo dato in mano il pezzo a Virtus, che ce l'ha un po' rivoluzionato, e ci abbiamo aggiunto la voce di Fabio, che ha fatto insomma una bella traccia, gira bene. No, che ne dite? Che ne pensate? Beh, assolutamente è una bella un restyle, era bella pure quella originale. Vabbè, era più lenta. Ma peccato che non c'è. Ci sta? Sì, dove sì. Ce l'avevo? Però intanto sentimo chiamate la polizia. Intanto, già che ci stiamo. Call the Police insieme a Radici nel Cemento, appunto Venom. Come tu mi insegni, tu sei il DJ dei Radici nel Cemento. Quello che era Radici nel Cemento, visto che qua c'è Giulio, ma non ci sta più, però vabbè. Fondamentalmente sì. Ma l'anima sua. Sì, esatto, no, lo vogliamo ricordare da vivo. Bella Giulia. Ce lo ricordiamo così, quando no. Cantava, che vedevo dire? No, metto Reggae di Roma, metto Reggae Muffin Italiano, no, metto puoi mettere, Rasta Lady, dai. Giulio, no, dai, mettiamo, scusa, Rasta Lady. Ma non c'è un conduttore, vero? Sta qua fuori, però poi purtroppo ci ha avuto... Dice che non prende dentro il telefono. E quindi è andata così e questa sera vi tocco io. Mettiamo a li questo tocchi, punto... Mi stai toccando. Quando vedo te, fit Rasta Lady, che sarà insieme agli utenici, sempre per parlare del Golden Green e per continuare a fare sponsor. Vi ricorderò, come sempre, New Tenici, Rasta Lady. Peace and Culture. Peace and Love. Festival. Se vuoi sentire questa cosa. Peace and Love Festival. Sei a staccare la radio? Perché non sta prendendo proprio. Vedi, c'è un bug. Muore, è ripartito. Ora si è rifermato. Motore banda, siamo tornati. A volte ritornano. Ancora no. Ancora no. No, siamo tornati, dai. No, ho scritto pure. Qua PC va. Simone. Dai, che va, va. Ma sì che va. Tsuna guana, quando vedo te, tsunami massive. Rasta. Yaga yaga yaga yoy. I never let you, never let you go. I never let you, never let you go. I never let you, never let you go away. Ho detto sai che faccio, metto su due rime. Ci ho provato anche con le letterine, tipo elementari con le figurine. Il resto è tutto dire. Yaga yaga yui, non importa quanto ancora c'è davanti. I tempi non sono mai stati importanti. Ma occhio con sti giochi e con sti inganni. E basta che non passino altri anni. Scusa a tutti i massicci e a tutte le massicce. Piantiamo i semi cantando Oi Maria. Ti ricordi quella sera in libreria? Ti dissi sarai solo mia. Come 20 grammi d'erba, mi sento spacciato. Se stai mano per la mano, con lui mi si ferma il fiato. Certo non so proprio il tipo che guarda il passato, però non sai. Ah, regà, comunque c'è tsunami. Guarda che c'è, stavo facendo appunto. Oh, sabato che sta comprando la tsunami altra. Cioè, tutti i presenti. Non sai cosa succede pacchia quando vedo te. Raina, cazzo è vero Raina, pure la maglietta dell'Arsenal. Ma ero pure scordato. Raina, su Flyer è meraviglioso. Speriamo non faccia il capolite per noi. Perché quello purtroppo qua scioglie. Accendo l'accendino, non so quante ne volo. In fondo lo so, si può solo risalire. Dopo che ho toccato il fondo, il mondo volevi scoprirlo con me. Lo ricordo, d'accordo, stavolta mi sa proprio che il sogno lo defondo. Ma accorgo che forse è stato meglio così. Ma non importa l'importo delle mie emozioni. Ti avvolgo i pensieri, ma oggi più di ieri. Ma penso sempre che non sai cosa succede quando vedo te. Non so cosa mi prende. E un saluto anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando sul podcast di Arcaio, perché a quanto pare la diretta salta spesso. Il podcast sarà sempre online su archive.org. Una nuova vita si fa strada nella nebbia. Ora che sembra una sfida, un sorriso sulla faccia. Prima di ogni cosa, prima di ogni scusa, prima di tenere su di un filo la vita sospesa. Tutto ci è servito per capire come siamo. Il tempo ci divide, l'esperienza resta un dono. Troppi dubbi in testa e non si riesce più a capire. Mi giro verso il sole, cerco la mia direzione. Avremo modo di capire la maniera di sentire nuove vibrazioni positive in divenire. Non sai cosa succede quando vedo te. Non so cosa mi prende quando vedo te. Non sai cosa succede quando vedo te, yeah. Il mio sorriso sei te, gioia di vivere. Metto fuoco e passione, la mia ispirazione. Non sai cosa succede quando vedo te. Non so cosa mi prende quando vedo te. Non sai cosa succede quando vedo te, yeah. Il mio sorriso sei te, gioia di vivere. Metto fuoco e passione, la mia ispirazione. E allora siamo arrivati al momento dei saluti. sia per la trasmissione ma anche per la tsunami. E vi ricordiamo appunto l'appuntamento sabato, ancora tanti auguri per i 12 anni. Ave Maria 2.0 la trovate su tutte le piattaforme. Adesso loro vi danno anche tutti i dettagli, tutti i link, visto che si lavora anche al nuovo album, da come ci ha detto prima il Phenom, non ha finito il discorso. E quindi andate voi, dai. E che c'è da dire? Allora, sabato ci ritrovate alla strada per i 12 anni della tsunami. Abbiamo deciso di fare un mega festone con appunto General Levi, Raina, Pacchia Sound e ovviamente noi. Ci saranno un sacco di amici che imboccheranno durante la serata a farsi un pezzetto, insomma, ad ampliare la festa. Si inizia alle 9.30 e si finisce alle 2, orario categorico, se no ci ammazzano a Garbatella. E poi godetevi Ave Maria 2.0 e poi, conoscendo i nostri tempi, tra 5 anni arriva un nuovo album. Però aspetta, Ave Maria 2.0 la gente dove la può sentire? Su tutti i canali, sia Store, YouTube, Dance, ovunque online. Vabbè, non fa di quanti, io ho chiesto perché uno magari sa OST, esce dappertutto e dice dove la trovo? No, ci dimentichiamo che non sei un conduttore radiofonico, quindi che ne sai, giustamente, cioè ragione, no, siamo usciti potevo anche dire disponibile su tutte le piattaforme, disponibile in cassetta e CD masterizzati, parlate esatto. Con me, chiavette USB anche con il logo della Tsunami Massive, ovviamente contraffatte, quando volete Maria 2.0, se vi va scaricatela, diffondetela, insomma teniamo alta un po' di musica reggae italiana ancora nel 2024, visto che non c'è tantissimo in giro, almeno aiutate le piccole produzioni come la nostra, aiutiamo tutte le produzioni. E anzi, settimana prossima avremo Silo, che non è proprio piccolissima produzione perché è prodotto da Magro Marco, ma settimana prossima ci abbiamo Silo e poi piccolissima produzione Cico Giramondo, sì. Presentiamo anche il suo, quindi etichette, autoproduzioni, noi siamo sempre aperti. Questo è Pirate Radio, Fire Bomb Babylon, tutti i mercoledì, Port Royal. Basta aggiungere chiocciola libero, mandateci le vostre canzoni. Se siete più o meno gagliardi, magari qualcosa vi passiamo. E andiamo allora a salutare la Tsunami Massive, a salutare tutti i masticci e le masticce all'ascolto. Ma mancano 40 minuti ancora, ma che sto a dire? Salutiamo solo... 23. Esatto, ma io ho fatto proprio c'è il fuso orario e io c'è il fuso orario di Ciampino, purtroppo ormai... è quella, è andata così da... i capisaldi sono sempre gli stessi, a General mai la gangia prima della serata e a Otello mai i lavari prima della trasmissione, sì. Sempre dopo, questi sempre sono i capisaldi, si imparano le basi. Gente che mi conosce, esatto. Io difatti questo stavo dicendo, non lo vedevamo da un anno, ma è sempre lo stesso. È gente che mi conosce, però sì. Ti ricordi quando mi ero accorto fuori dal Viper? Tu vuoi continuare a raccontare della scatola nera? No, vabbè, no, per carità, appunto, io vorrei chiudere qui l'ospitata della Tsunami. Non la chiudiamo qua perché loro si fermano, quindi poi vabbè, quando però, vogliamo dire un po' di cazzata apriamo il microfono. Sì, però se alla certa se ne vanno andare via. Ovviamente, io intanto chiuderei lo spazio. Scusate, se vi allontanate facciamo la chiusura da parte nostra. Allora, dicevamo, grazie a tutti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa trasmissione. Mi ricordo bella quando facevo lo speaker. Bella Sound Unity, bella Natti. Bella Lupolati che c'è stata a sentire. Belli Amalio, speriamo che ci ascolti. Chissà da dove poi. Sì, Mario sta col fuso orario, figurati, poi con quello da bambina. Appunto, ancora peggio. Cioè, siamo, dai, io e Mario Gami, ci sabato te rompemi il culo. I messaggi sublimi Kami. Bella a tutti, bella grazie, raga, bella paglia con Babylon. Dai, Tsunami Massive. 1, 2, 3, flock. Rinvitiamo tutti sabato a Garbatella alla strada per festeggiare i 12 anni al tsunami. Inquieti così vicino. Hai visto? Dai, che serietà. Beh, il primo bacetto meno del 2024. Male che appunto non ci abbiamo delle chiavi. Che andiamo a sentire? No War! Oh. Tsunami Massive, Daddy Freddy. Tu ricordi Daddy Freddy al Parco d'Acque tutti? Crazy Freddy. Tu ricordi Daddy Freddy a... Blackout J.K. Daddy Freddy. Aspetta, e mi sono fermato su Daddy Freddy. Quando si piava quando... i soldi vita a plate e poi spariva. Ma quando mi chiamo... Quando mi chiamò che aveva dato una cortellata al vicino e gli servivano i soldi per scendere il principale. È stata a fare una pubblicità proprio. Pure a me mi ha chiamato. Gli davo il Daddy Freddy. Poi Blackout J. Blackout J. Un altro un signore. Penso. Blackout J. Aspetta, Daddy Freddy. Blackout J è proprio un lord che se meriterebbe un cardigan come e tu. E poi già tu ciao, Massi. Yo, Black OJ, Big Trip, Daddy Freddy. Yo, when the lights are burning them, the lights are popping up. Yo, Future Man, there, hear me now. How they be come out with that big bag of talking? I know say lyric in the shower till the morning. How they be come out with them big bag of chat? I know say them a youth had the cream and the cup of tea. How they be come out with them big bag of talking? I know say big things will go on till the morning. How they be come out with them big bag of chat? I know say them a youth had the cream and the cup. Man a serial dapper, real top shatter. I no play the yaka, man a real killer. See people with things them am that we pillar. Last year we sick, but we no rapper, we no winner, we no skinner, we no player, no we kill the nigga any night and day. This the wrong man, I am the right away car. Use his tail and put them under the clay. Listen, you know you're right, you know follow what we say. You know follow your money, pop on, know you did right away. Can't be no cause upon the king's highway. Listen what the future man say. Tell them a future, me name, so me no look back. What done in the past, man, still no forgot. The best is to come in for that. Hypocrite a watch and a me dem a chat. No a this pull me over cause dem know seh me hot. See me not the club and me dem gal a watch. Say dem a big fish but me see seh dem a sprat. Hype every day and a one like failure. Yo, how dem fi come here with dem big bag a talking? I know seh big things we go on till the morning. How dem fi come here with dem big bag a chat? I know seh big trip him a the cream a the crap. How dem fi come here with dem big bag a talking? I know seh big things we go on till the morning. How dem fi come here with dem big bag a chat? I know seh big trip him a the cream a the crap. And I just sit in the rindin, we can all live in good. And I just sit in the rindin, this is not the right mood. And I just sit in the rindin, we can all live in good. And I just sit in the rindin, Lord. What in the south, what in the north? We don't do doping, no need no more. What in the west, what in the east? Free the Palestine, them just need peace, it's a shame. You really wanna play with my life, it's a shame. You working every day on my rights, it's a shame. You know what I want worldwide, it's a shame, stop your fight. Boom! No war, more love, no war, more love. In other city, hey, hey. Meaning more love, meaning more love. In other world, no war, more love, no war, more love. In other city. How they be come out with them big bag of talking? I know say lyric in the shower till the morning. How they be come out with them big bag of chat? I know say them a youth a the cream a the cup. How they be come out with them big bag of talking? I know say big things will go on till the morning. How they be come out with them big bag of chat? I know say them a youth a the cream a the cup. Man a serial dapper, real top shatter. I know plenty of come on a diceva non amare nessuna, papà diceva buona fortuna, là fuori un mare di fango, king of the jungle, king of the fumo, troppo dormo poco, diceva mio fra da quando togo, è il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango, king of the jungle, king of the jungle, yeah, walk like a champion. champion, talk like a champion. Giro per la strada come un king of the jungle. Spacco barre dai tempi dei lotti al parco. E ancora quando vengo fuori frate scoppia al palco. Yeah, mamma non ha cresciuto uno scemo. Mi ha detto se continui in questo modo dove andremo. Ma io volevo prendermi tutte le stelle in cielo. Pericoloso genio ribelle Mettemon. Sai che la furia è street Wikipedia, ma con la terza media siamo bestie di Milano. Gorilla nella nebbia, frate vengo dal futuro tipo Levi Strauss. Vieni accomodati pure baby casting couch. Mordo un etto d'oro e l'ostia dei Club Dogo. È un bagno di proiettili, è un battesimo del fuoco. M.I. bastardi, se incroci gli sguardi sopra i quattro quarti, vai via in quattro parti. Oh mamma, diceva non amare nessuna. Papà diceva buona fortuna. Là fuori un mare di fango. King of the jungle, king of the fumo. Troppo dormo poco, diceva mio fra da quando togo. È il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango. King of the jungle, king of the jungle. Vengo da Milano, 9 zone 02 il prefisso. Dove se sbagli prendi un sinistro. Croci sulle fontane, croci al collo, magna c'hai puttane. Criminali dentro cene mondane. Oro nei denti, serpenti coi completi fendi. Non mostrare i veri sentimenti. Peggio i social che l'alcol, uccidono anche più del cancro. Con Meduri un tempo piccolo, Califfo Franco. Yeah, io canto la storia di un hustler. Non devi morire, i tuoi figli saranno dei pasta. Questa giungla, la mia bici è una tigress, la mu. Mi stanno addosso come dei tattoo. È la life, e tu sei troppo light, brody. Make money, money e light, moti. Sono un cima il Pirelli come Kong, perché ho cambiato il rap italiano con le mie song. Mamma diceva non amare nessuna. Papà diceva buona fortuna. Là fuori un mare di fango. King of the jungle, king of the fumo. Troppo dormo poco, diceva mio fra da quando dogo. Mi ha cresciuto bene, mi ha detto di non ascoltare queste iene. Papà mi ha detto di tenere alto il mento, sopravvivendo nella giungla di cemento. Nella notte notte killer, sangue nelle mie pupille. Totalmente dipendente, sei la droga più potente che c'è. Set your body ablaze, your body ablaze. Me and you baby, set your body ablaze. Set your body ablaze, your body ablaze. Me and you baby, set your body ablaze. Baby, won't you light my fire? Bang, bang, bang. Can you take me higher? Come back with Zelda. Don't worry your brain. Don't you fret, just listen I'm saying. Woo! Serious, be serious, I'm looking at my face. I'm trying to take you back to my place. No one, baby, just stick to my pace. Rock steady, girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, enough, no time for wait. Don't want run you down, don't want change. Baby, won't you light my fire? Bang, bang, bang. Can me desire, beat you with the wire, make me sing out like a choir. Come ya Sean, come give me little light. Spark it up, cause me need little fire in me life. What a long time me no get to see you. Panty wetter than the water way in the rio. Take me high up like a me and me Jesus. Come one then, two then, three. Baby, won't you light my fire? Never turn it up fire. Fire touch skin when the neighbor get vexed and get up and knocking. When bedboard it knocking and girl back it cracking. Steady level in the town and we keep it tracking. A baby girl knowing that nothing ain't lacking. Brand spanking, new machine keep going. Listen to me DJ, listen to me sing. Sound apart from the hard girl I keep talking. Them, them, no, no good love girl. Yo, them, them, no, no good love girl. Them, them, no, no good love girl. Yo, them, them, no, no good love girl. Pari mochile in dei documentari. Siamo cinematografica, sicario. Un top la gamma. RS Q4 Q8. Siamo narrati, parto lo globo. Non frate, ricetta, canna, cappa in un moto. Su dai tu non mi è custode. 32 minuti live, anzi esattamente 32 minuti e 24. Vedi a più di che sa gang che contando. 10.000 euro sullo rin dall'aeroporto. E che faccio? C'ha namurami, annamurami, figli e papà. Se mi rassi caduto in destra di cala. Ano tu porta piccio che me li raggiamo madam. Ano bevono vino che tu papà. E a fra mi papamo punto. Rimani ma mangi punto. Perché nessuno mi dà schifo quando sono defunto. Faccio bagno che delfino. Se maldive sono cavere. Ringrazio a nativa. In primis a papà e a mamma. A noi che ci dice no. Fine mo. Solo sì. Quanto durerò rinò. Giorno già. Oro rossi. Ma che la capisci. Mi deve sinistro. Funziona con l'ambo black. Passo a noi che ci dice no, fine mo, solo sì. Quando dovrò rilocci, ora già olio rossi. Ma che la capisci, mi devi il sinistro. Funziona con l'ambo black, ma se lo sembra. Yeah, fondo verde su dai tono. Com'è che quando vincimo non applaudo. Rindanato, rindanata. Guarda pure a chi ci applaudo. Ricci dici a Napoli. Non so perché sui miei non sono chipato. Ma in silenzio mi godo panorama. Guida amico Panamera, se l'anonimate. Chi mi blocca ma difende ogni strada. Da ne parla di cosa faccio, pensa all'avvocata. Lei chi ci dice no, solo mo, prima no. Perché non te ne vemo, manche so, manche bro. E chi ci diceve no, quando no, paruca. A noi che ci dice no, fine mo, solo sì. Guarda dove lo rilascio, ora già, ora no. Sì, ma che la capisci, mi devi il sinistro. Funziona con l'ambo black, passo tu se ne. A noi che ci dice no, fine mo, solo sì. Guarda dove lo rilascio, ora già, ora no. Sì, ma che la capisci, mi devi il sinistro. Funziona con l'ambo black, passo tu se ne. Inna your feelings. Ay, I'm mostly conscious cause you're sleeping, I'm out. And you probably think that girl you're bad, I bet you love the drama. But my kinda like the vibe, so I guess I can come over if you really wanna. I spy that you see something you might like. Won't you come over if you really feel it? Ask all your questions, yes I really mean it. I'm trying to hide.

Give him the mic and wall a seat and sit down. Rub up and miss a catch a man him come fi settle down. Whenever time he come, me say that guy skin bun. Cause Jaja the father, miss a catch him and his son. But what them a go do a win in general? Come follow me now. Give him the mic and wall a seat and sit down. For some of them coming a shock and some of them come and so that them done. The general a come, no general a come, no come fi settle. Follow me now, out and make me come down. Make me come down, watch out, make me come down. Make me come down. Dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung. A long time me there, me settle and a mass. Now look no food and go back at your class. And all of them a walk and talk and say that Patsy come last. Me fly out of the shoes and them no say I win me pass. I'm coming at the two and then me ass get fast. A furlong and a half and them no say I win me pass. When me come a glass house gone back at your class. The whole of them a shout out me a chief of staff. Have about one salute and make it general. Follow me now out and make me come down. Make me come down, watch out, make me come down. Make me come down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. But with them I go do a when the general come. Hey, hey. Give him the mic. Ain't scum. Yeah, we don't worry about that thing. We don't worry for the girl them we are seeing. Follow me now. All right, content. Worry, we no worry, we no worry, we no worry about them. We sing for the girl them. One sexy girl them. Oh, all right. Worry, we no worry, we no worry, we no worry about them. Originale Mattuna qua è per Port Royal su Pirata e Radio, tutti i mercoledì in diretta dalle 21 alle 23. Fai a pomba Billan. Watch your man, them a line up. We fan club, them a join up. One by one, them a sign up. Me a fit big the woman, them right up. Moving on a style and pattern. Me F me foundation, me know I hold a ranks. Angle bang, we do the dance. Every night on the clock, we do the dance. Cause we put the man to fire, now they watching on the block. Me know the foundation, me know the bantam. Angle bang, it is man in the place up. All them a dance all creates up. It is man in the place up. But them a, but them a, but them a, but them a, but them a conquer the dancehall scene up. Some new singer this them put me mean up. DJ play out school then we take up. Foundation of the art. Love your style, no, love your style, yeah. Love your style, no, love your style. Hey, when you play a 7-inch, who are the ranking? How many did you tell me who are the king? You're not tapa tapa tin, tapa tapa tin, tapa tapa tin, tapa tapa tin, tapa tapa ting. Down on a this, we no need Judah kiss. Started a history, who conquer first? Them a tapa tapa tin, tapa tapa tin, tapa tapa tin, tapa tapa tin, tapa. How many rock on day, ya, me aya? People are thinking, people no tire. When the rock on day, ya, me fire meditation. Be real, me a dad, me no liar. Love your style, no, love your style, yeah. Love your style, no, love your style. Lad, we do the dance. Every night in the club, we do the dance. Now we love rock and moving on a style and pattern. Me have me foundation, me know how old I ranks. Angle bang, we do the dance. Every night on the clock, we do the dance. Now we put the massive fire in the what's in the block. Me know a the foundation, me know a the bantan. Angle bang. Love your style, no, love your style, yeah. Love your style, no, love your style. Forse piloto un destino romantico. approccio ad un libero attracco. Una libera radio fa parte di me. Radio e sensori conducono e magneticamente azioni. Radio e sensori riattivano inconsapevoli propulsioni. Perché radio e sensori riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sensori contagiano e con libere informazioni. Anche perché radio e sensori si nutrono con autentiche pulsazioni. Siamo tutti figli della stessa rabbia. La libertà, come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar Sandino, José Martí e Camilo Torres, come chi combatte col cuore. 28 aprile a Bologna. Come ogni anno partiremo tutti insieme in ricordo del sigaro. C'è gente pure quest'anno, figli della stessa rabbia, come Jesus e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come c'è Farabundo Martì, figli della stessa. Anche Davide e Luca. Message to the Sarge, just to let him know, before they make him know, I've got a stock of Sensimania grooming in my backyard. I have spoken, I got me a promote. Kill bam bam bam, like the man we deal with crack and smoke. Herbs I have spoken, I got me a promote. Sensimania, hey. I stand aside and see them crack boat sinking. Many know the outcome and still because of it. Constant using of cocaine and heroin, living life without a meaning. Mr. Farmer Man, till this island planted, killing off the nation, get to you, say what it. Can't get addicted and you could never abuse it. Coke and crack me, I beg you, just refuse it. As a roots man has spoken, and that me a promote. He grump and bubble like the man with TV drug and food. Roots man has spoken, and that me a promote. Me have the bondy sense in me, constantly each day, them legalizing gay and locking up the youth with Sensimania. What them a portray, me sight them pan for play, and who let in the hard drugs pan the senior. I need to mash up the youth them aid, and it's around the old place way, hey. I burn the herbs to all a meditation well. Bird sacrifice, I have to give thanks and praise. It's man of smoke, roll on, you see it, hey. We burn the snatcher and the coke, mocha, roll on. In the say 15 ounce of white powder, dilute them brain. And I see so many people getting hooked on the crack and cocaine every day. Well, I and I got some Sensimania in my backyard. And before the informers go jackyard, I send a message to the search, just to let him know before they Joker make him smoker. Joker smoker. Ringraziamo ancora Tsunami Massive che è stata qui a presentare il suo ultimo brano Ave Maria 2.0 featuring Terron Fabio. Riascoltateci tramite podcast, ovviamente. Un saluto a tutti gli amici di Pirate Radio, la chat di Telegram, e a tutti gli amici di Reggae Mania. Ciao a tutti e a tutte, ci sentiamo mercoledì prossimo su www.pirateradio.com con Port Royal. Grazie ancora. Big up!